benden bir selam ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Per prima cosa ringrazio tutte tutti per essere qui e per lo sforzo che avete fatto per esserci. Özellikle Kürdistan burada bulunmamızı sağlayan Kürdistan Enformasyon Dosu'na özellikle teşekkür ediyorum. In particolare ringrazio l'ufficio di informazione del Kurdistan per avermi invitata. Tabii Rojin arkadaş konuşmasında da söyledi. Ben gerçekten Sakya'nın kaldığı cezaevinde kaldım ve üzülerek söylüyorum. O haberi de o cezaevinde öğrendim. Come ha già detto la compagna Rojin, io sono stata nello stesso carcere in cui è stata rinchiusa la compagna Sara e lo dico molto, con molta tristezza il fatto di aver appreso della notizia del suo omicidio proprio mentre ero in carcere. Dolayısıyla Sakine ile ilgili bir kitabın tanıtımına katılıyor olmak benim için çok ayrı bir anlam ifade ediyor. Per questo partecipare alla presentazione del libro che in cui racconta la sua vita ha per me un significato molto diverso. Fiziki olarak ölmüş olabilir ama ben ilk duyduğumuz andan itibaren ve hala da aramızda yaşadığına inandığım bir insan ve bugün bunu bir kez daha bu duyguyu yaşadım burada, yaşıyor aramızda şu an ve inanıyorum ki bizleri dinliyordur. Dice perché può essere stata uccisa fisicamente, ma io sento la sua presenza sempre tra noi, in particolare in questo momento, credo che lei sia presente in mezzo a noi. Kitabı okuduğunuzda ilk başta bir bölüm var, benim çok dikkatimi çekmişti. Şöyle diyor işkencecisine, kendisine Türklüğü dayatan işkencecisine. Ben Kürdüm ama her şeyden önemlisi ben bir devrimciyim ve devrimcilikte milliyetin ya da ırkın bir önemi yok. Bugün bu burada bir kez daha bence kanıtlanmış oldu. Dice un passaggio che a me ha colpito molto nel libro è quando le viene chiesto di affermare le viene chiesto se fosse turca e lei risponde io sono curda ma per prima cosa sono una rivoluzionaria e tra i rivoluzionari non esiste il nazionalismo e non esiste il razzismo e quindi penso che in questo momento qui ci sia una nuova affermazione di questo fatto. Sakine bütün bir hayatını Kürt kadının ve Kürt halkının özgürleşmesine adayan bir devrimci kadındı ama her şeyden öncelikle hep kitapta da ısrarla bahsetti ve vurguladığı bir şey vardı. Sayın Öcalan'a yoldaş olabilmek ve o arada güçlü bir bağ vardı. Sakine era una donna, una rivoluzionaria per la liberazione, per la libertà e per la liberazione del popolo curdo, ma più volte anche nel libro sottolinea come fosse cercasse di essere il più possibile anche una compagna del presidente Öcalan e si vede molto come ci fosse un legame molto stretto fra di loro. Ve maalesef ikisi de birbirlerine çok değer verirlerdi ve maalesef ki Sayın Öcalan da bu haberi cezaevinde öğrendi. Entrambi davano molto valore l'uno all'altra e purtroppo anche il presidente Öcalan ha appreso la notizia dell'omicidio di Sara mentre era in carcere. Bugün 13 Şubat, 15 Şubat günü cezaevindeki 18. yılını dolduracak Sayın Öcalan. Oggi è il 13 febbraio, il 15 febbraio sarà 18 anni che il presidente Öcalan è rinchiuso nel carcere di Imrali. Ve mutlak tecrit altında karşılayacak bu geçirdi bu süreci. E soprattutto ha passato questi 18 anni in isolamento, in questo momento in completo isolamento, ma la maggior parte del tempo in isolamento. Ben bu vesileyle bir anısını paylaşmak istiyorum burada. E qui voglio condividere con voi un fatto inerente a questo. 2009 yılında Sayın Öcalan'ın yanına götürülen 5 yeni arkadaşı vardı, mücadele arkadaşı. Ve bunlar Türkiye'de daha sonra 2014 Mart ayında başka cezaevlerine sürgün edildiler, oralara gönderildiler. 2014. Nel 2015 Mart. Nel 2009 erano stati portati altri 5 prigionieri nel carcere di Imrali, dove prima Öcalan si trovava come unico prigioniero, e, però nel 2015 sono stati esiliati in un altro carcere. Ve gelen arkadaşlardan biri Sayın Öcalan'ın Sakine'nin katledilişini öğrenme anını anlatmıştı. Ben bunu paylaşmak istiyorum. e questi prigionieri hanno raccontato quello che il presidente Giolanna aveva detto in merito all'uccisione di Sara. Bütün İmralı Adası'nda kalan altı, yani toplamda 6 kişinin bir araya gelip sohbet ettikleri bir oda var. Sohbet odası denilen bir yer. A İmralı c'è una camera, una stanza nella quale i prigionieri potevano incontrarsi, dove appunto questi sei prigionieri fra cui Ocalan potevano incontrarsi alla camera del conversazioni del corso. Beş arkadaş oraya çıkartılıyor ve Sayın Ocalan sonrasından getiriliyor. E fanno uscire questi cinque prigionieri da questa stanza e dopo ci portano soltanto Ocalan. Ve anlatan arkadaş şunu söylüyordu. İlk defa Sayın Ocalan'ı bu kadar duygusal, bu kadar etkilenmiş gördük. İçeri girdi ve bir sandalyeye oturdu. Birkaç dakika hiçbir şey konuşamadı bizimle. E dice, dopo essere stato portato in questa stanza, quando l'abbiamo rincontrato per la prima volta, l'abbiamo visto così provato, che così, diciamo, emozionato. Quando l'abbiamo rivisto, diciamo, per diversi minuti si è seduto e non è stato in grado di parlare. Kendisini biraz toparladıktan sonra arkadaşlara sakinlerin haberini öğrendiğini ve onun için bir saygı duruşuna kalkmalıyız diyerek 5-6 kişiyle beraber İmral Adası'nda Sakine'yi anıyorlar. Dopo essersi ripreso, ha diciamo condiviso con questi altri prigionieri il fatto di aver appreso dell'uccisione di Sara e ha chiesto di fare un minuto di silenzio in sua memoria e quindi nel carcere di Imrali questi sei compagni hanno commemorato la compagna Sara. Ya bütün devrimci hareketlerde şehitler ardından saygı duruşu bir anlam ve bir bağlılık ifade eder. In tutti i movimenti rivoluzionari questo che in realtà minuto di silenzio la traduzione in italiano però sarebbe uno stato di rispetto, la traduzione letteraria, è un modo per affermare, per rappresentare un legame tra rivoluzionari. Bu anlamıyla çok önemli bir tarihi an aslında İmralı Adası'nda yaşanmış. Ve maalesef ki e quindi nel carcere di Imrali è stato vissuto un momento veramente storico, nel momento in cui appunto questi sei prigionieri, fra cui il presidente già hanno ricordato, hanno commemorato Sara insieme in questo carcere. Biraz bunları konuşmak gerçekten zorlayıcı oluyor. Dice, raccontare queste cose, parlare queste cose è difficile. Yani kuşkusuz Sakin arkadaşın geliştirdiği kadın mücadelesi hala devam ediyor. Ve aslında Kürdistan'da yaşanan Kürt kadın hareketine ve Kürt kadınlarına yönelik gelişen bütün baskı, sömürü, saldırı, taciz, tecavüz bu baş kaldırı ve şeyden bağımsız değildir. Senza dubbio la resistenza della compagna Sara ancora viva nel movimento delle donne curde in Kurdistan e nonostante tutte le pressioni, l'occupazione, le torture, le violenze, gli stupri, non tutta la resistenza che c'è, la lotta che c'è non è scollegata dalla compagna Sara. Bugün in Kurdistan'da artık cezaevleri şehirlere taşındı. Cizre bir cezaevi halinde, Sur bir cezaevi halinde. Sokağa çıkma yasaklarıyla bunlar yaşanıyor ve buna karşı muazzam bir direniş var. Adesso nel Kurdistan le prigioni si sono trasferite nelle città. Adesso la città di Cizre è diventata un carcere, il quartiere di Sur è un carcere e questo attraverso il coprifuoco, attraverso il divieto assoluto di 24 ore di uscire per strada. Ma questo ha come risultato, come conseguenza anche una fortissima, enorme resistenza. Ve orada direnenler de tıpkı Sakine gibi devrimciliklerine, özgürlüklerine ve kadınlık kimliklerine saldırıya karşı kendilerini koruyorlar. Quelle che resistono in queste città lo fanno attraverso l'identità rivoluzionaria, attraverso l'affermazione del diritto a essere libere, attraverso l'affermazione dell'identità di donne. Yaşanan bu çatışmalarda ve bu savaşta ölülere saygı olmadığı gibi kadın bedenine karşı ayrı bir tutum var, ayrı bir uygulama var. in questa guerra, in queste violenze, insieme a, alla mancanza assoluta di rispetto verso l'umanità, verso l'essere umano, c'è poi un atteggiamento ancora diverso nei confronti delle donne? Muşumbartu ilçesinde yaşamı yitiren Ekinvan'ın bedeni bu şekilde teşhir edilmişti öldürüldükten sonra. In questo modo è stata messa in pratica questo, questa violenza particolare contro le donne nei confronti di Ekinvan, che a Varto, dopo essere stata uccisa, violentato il corpo e esposto. Ve yine daha birkaç gün önce henüz kimliği tespit edilememiş iki kadının bedeni aynı şekilde Cizre'de teşhir edildi. E nella stessa maniera due giorni fa a Cizre i corpi di due donne sono stati martoriati ed esposti anche sui media. Bunların hepsi aslında gelişen kadın özgürlük mücadelesine bir cevap Türk devleti tarafından. E questa è una risposta dello Stato turco contro la lotta per la libertà delle donne. Kürdistan'da bunlar yaşanırken aslında Türkiye metropollerinde de benzer şeyler yaşanıyordu. Mentre questo succede nel Kurdistan, anche nelle metropoli turche succedono delle cose simili. Yine yaklaşık bir ay kadar önceydi İstanbul'da infaz edilen iki devrimci Türk kadını vardı. Bir ay kadar önceydi. Circa un mese fa a Istanbul sono state uccise due rivoluzionarie turche. Burada özel olan şu iki bu iki devrimci kadının kadın zaten bedenler taranmıştı tamamıyla iş olmuştu ama özellikle kadınları kadınlıkları hedeflenerek vajinalarına özel olarak silahlar sıkılmış yani kurşunlar özellikle o bölgede oralar taranmıştı. E queste donne sono state uccise in una maniera apposita contro il corpo delle donne, oltre ad essere state le è stato sparato contro, ma in particolare le hanno sparato nella vagina per sottolineare quello che era l'attacco contro il loro corpo. Bu biz kadınlara aslında bir mesaj. Özgürleşen ve bir kimlik sahibi olan Kürt kadınlarına ve onun dostu olan Türkiye'li kadınlara bir mesajdı. Questo è un messaggio che ci viene mandato come donne, sia le donne del movimento di liberazione curdo, ma anche tutte le donne, in particolare le donne turche che partecipano a questa resistenza, avranno questo trattamento. Kuşkusuz yaşanan savaşta kadınlar her zaman için daha mağdur olanlardır. Çünkü savaş en çok yıkımlarını en çok çocuklar ve kadınlar üzerinde gerçekleştirir. Şöyle düşünün, Demokratik Barışlar Demokratik Bölgeler Partisi'nin hukuk komisyonu yaptığı istatistik verilere göre 24 Temmuz'dan bu yana 65 çocuk ve 44 kadın öldürülmüş. E questa guerra e queste violenze che si stanno vivendo in particolare nel Kurdistan del Nord vedono come un attacco maggiore nei confronti delle donne e dei bambini da quando c'è stata la dichiarazione dell'autonomia delle città autonome in Kurdistan, dai dati che abbiamo dal 24 luglio sono stati uccisi 65 bambini e 44 donne. Ve tabii bunda son bir haftadır Cizre'de 3 Bodrum'da mahsur kalarak yaşamını kaybeden, yakılarak katledilen siviller bu rakamlara dahil değil. E i civili che sono stati uccisi nei tre scantinati a Cizre negli ultimi giorni non fanno parte di questi numeri che ho appena detto. Hala çünkü orada 150 insan, 82 cenaze netleşmiş olsa da toplamda 150 insan kayıp. Sono stati in questi scantinati uccisi 150 civili, di 62 si sono riconosciuti i corpi, però per ora sono 150 le persone che ancora non sono state riconosciute. Yine hala Diyarbakır merkezi Rozer'in isimli lise öğrencisinin cenazesi bir ayı aşkındır sokak ortasında beklemekte. Nel centro di Diyarbakir è stato lasciato il corpo di una donna che si chiama Rozerin per un mese senza che potesse essere recuperato. Ya kuşkusuz tüm bu yaşananları İmralı'da yaşanan tecritten bağımsız ve Kürt kadın hareketinin geliştiği özgürlük mücadelesinden bağımsız değerlendirmemek gerekiyor. Non possiamo considerare scollegato tutto questo che sta, quello che sta succedendo dall'isolamento nel carcere di Imrali e dalla lotta di liberazione delle donne kurde. Çünkü bizler şunu çok iyi biliyoruz. En azından ben İmralı sürecinin tanığı olarak şunu çok iyi biliyorum. İmralı Adası'na tecrit derinleştiği zaman Kürdistan'da da bir savaş derinleşiyor. Io avendo seguito da vicino il processo di Imrali e tutti questi anni quello che è successo, posso dire che ogni volta che l'isolamento di Öcalan viene reso più duro, anche la guerra in Kurdistan è più violenta. Ve maalesef bu tecrit bu defa Kürdistan'ın tamamına yayıldı. Artık kentler ve sokaklar tecrit altında. E adesso questo isolamento si è diffuso non soltanto nel carcere di Imrali, ma anche in Kurdistan, perché molte città e quartieri sono sotto isolamento. Kadınlar nasıl ki özgürlük arayışlarını sürdürüyorlarsa aslında Kürt halkı da bir statü arayışı içerisinde. Come le donne stanno continuando a cercare di raggiungere, di ottenere la libertà, così anche il popolo curdo continua a lottare per una propria identità e autodeterminazione. Dolayısıyla nasıl ki özgürlük arayışı devam edecekse Kürtlerin de statü arayışı devam edecek ve bu yaşananlar ancak bir statü edindikten sonra çözülecektir. E quindi come continuerà la lotta per la libertà, continuerà anche questa lotta per uno Stato, ma non Stato-nazione, un riconoscimento del popolo curdo, e finché questo riconoscimento non sarà avvenuto, continuerà la guerra e continuerà la resistenza? Ben özetle bunları söyleyebilirim. Biraz sorulara zaman bırakmak istiyorum. Soru sormak isteyen olursa cevaplamak için. Dice, io voglio concludere qui perché preferisco, se volete, rispondere a delle domande o comunque lasciare spazio a un dibattito. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Di nuovo vi ringrazio per avermi ascoltata. Ve şunu söyleyeyim, bizler hala, yani bizler burada konuşurken şu an Kürdistan'da direnen kadınlar eminim bizi hissediyor ve duyuyorlardır. E voglio dire anche che mentre noi stiamo parlando di loro, le donne in Kurdistan ci sentono e ne sono consapevoli, ci sentono vicine.